L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Dodicesima puntata. Il palazzo incantato. Lettura poetica di Alberto Lupo. Narratore Gianni Bonagura. Il poema che stiamo percorrendo è un labirinto nel quale s'aprono altri labirinti. Nel cuore del poema è un trabocchetto, una specie di vortice che inghiotte a uno i principali personaggi, il palazzo incantato del mago Atlante. Già il mago ci aveva fatto incontrare, tra le giogaie dei Pirenei, un castello tutto d'acciaio, poi l'aveva fatto dissolvere nel nulla. Ora, in mezzo a un prato non lontano dalle coste della Manica, vediamo sorgere un palazzo che è un vortice di nulla, nel quale si rifrangono tutte le immagini del poema. Attraversando un bosco, Ruggero sente un grido. Vede un gigante in lotta con un cavaliere. Sotto un colpo di mazza del gigante, il cavaliere cade. Dall'elmo slacciato gli esce un'onda di capelli biondi. È Bradamante. Ruggero insegue il gigante che fugge trascinando la guerriera esanime e sparisce in un palazzo di marmo dalla porta d'oro. Ruggero entra, percorre sale, logge, scale, si perde, perlustra il palazzo da cima a fondo più volte. Nessuna traccia, né del rapitore né della rapita. Come Cerere cercava Proserpina rapita da Plutone, così rapimenti e ricerche affannose si intrecciano per le contrade della Francia. A Orlando, che andava in cerca d'Angelica, succede la stessa identica storia che a Ruggero. Vede rapire la sua bella, insegue il rapitore, entra in un misterioso palazzo, gira e gira. Il palazzo è deserto. Ossia, è deserto di quel che si cerca e popolato solo di cercatori. Atlante ha dato forma al regno dell'illusione. E se la vita è sempre varia e imprevista e cangiante, l'illusione è monotona, batte e ribatte sempre sullo stesso chiodo. Questi che vagano per androni e sottoscale, che frugano dietro gli arazzi e i baldacchini, sono i più famosi cavalieri cristiani e mori. Tutti sono stati attratti nel palazzo dalla visione di una donna amata, d'un nemico irraggiungibile, d'un cavallo rubato, d'un'arma perduta, e non possono più staccarsi da quelle mura. Se uno fa per allontanarsene, si sente richiamare, si volta e l'apparizione invano inseguita è là, affacciata a una finestra, che implora soccorso. Cerere, poi che dalla madre Idea, tornando in fretta alla solinga valle, laddove calca la montagna Etnea, al fulminato Encelado le spalle, la figlia non trovò dove l'avea lasciata fuor d'ogni segnato calle, fatto ch'ebbe alle guance, al petto, ai crini e agli occhi d'anno, al fin svelse due pini, e nel fuoco gli accese di Vulcano, e die lor non potere esser mai spenti. E portandosi questi uno per mano, sul carro che tiravan due serpenti, cercò le selve, i campi, il monte, il piano, le valli, i fiumi, gli stagni, i torrenti, la terra e il mare, e poi che tutto il mondo cercò di sopra, andò al Tartareo fondo. Sin poter fosse stato Orlando pare all'Eleusina Dea come in disio, non avria per Angelica cercare lasciato o selva o campo o stagno o rio o valle o monte o piano o terra o mare, il cielo e il fondo dell'eterno oblio. Ma poi che il carro e i draghi non avea, la gia cercando al meglio che potea. L'ha cercata per Francia, or s'apparecchia per Italia cercarla e per la Magna, per la nuova Castiglia e per la vecchia, e poi passare in Libia il mar di Spagna. Mentre pensa così, sente all'orecchia una voce venir che par che piagna. Si spinge innanzi

tosto che pon dentro alla soglia il piede, per la gran corte per le logge mira. Né più il gigante né la donna vede, e gli occhi indarno or quinci or quindi aggira. Di su, di giù va molte volte e riede, né gli succede mai quel che desira, né si sa immaginar dove si tosto con la donna il fellon si sia nascosto. Poi che rivisto a quattro volte e cinque, di su, di giù, camere, logge e sale, pur di nuovo ritorna, e non relinque che non ne cerchi fin sotto le scale. Con speme al fin che sian nelle propinque selve, si parte. Ma una voce, quale richiamò Orlando, lui chiamò non manco, e nel palazzo il fe ritornaranco. Una voce medesma, una persona che paruta era angelica ad Orlando, parve a Rugger la donna di Dordona, che lo tenea di se medesmo in bando. Se con gradasso o con alcun ragiona di quei ch'andavan nel palazzo errando, a tutti par che quella cosa sia, che più ciascun per sé brama e desia. Questo era un nuovo e disusato incanto che avea composto Atlante di Carena, perché Rugger fosse occupato tanto in quel travaglio, in quella dolce pena, che il mal influsso n'andasse da canto, l'influsso ch'a morir giovene il mena. Dopo il castel d'acciar che nulla giova, e dopo Alcina, Atlante ancor fa prova. Non pur costui, ma tutti gli altri ancora che di valore in Francia han maggior fama, a ciò che di lor man Rugger non mora, condurre Atlante in questo incanto trama. E mentre fa lor far quivi dimora, perché di cibo non patischin brama, si ben fornito avea tutto il palagio, che donne e cavalier vi stanno ad agio. Lo stesso grido d'aiuto, la stessa visione che a Ruggero parve di Bradamante e ad Orlando parve d'Angelica, a Bradamante parrà di Ruggero. Il desiderio è una corsa verso il nulla. L'incantesimo di Atlante concentra tutte le brame inappagate nel chiuso d'un labirinto, ma non muta le regole che governano i movimenti degli uomini nello spazio aperto del poema e del mondo. Anche Astolfo capita da quelle parti. Nel suo veloce giro del mondo è passato un momento a casa in Inghilterra e adesso è di ritorno in Francia. Mentre sta bevendo a una fontana, un contadinello gli ruba il cavallo Rabicano, o almeno così pare. Fatto sta che, inseguendo il ladruncolo e il cavallo, anche Astolfo finisce nel palazzo incantato. Ma con Astolfo non c'è incantesimo che valga. Nel libro magico che gli ha regalato la fata Logistilla è spiegato tutto sui palazzi di quel tipo. Astolfo va diritto alla lastra di marmo della soglia. Basta sollevarla perché tutto il palazzo vada in fumo. In quel momento viene raggiunto da una folla di cavalieri. Sono quasi tutti amici suoi, ma invece di dargli il benvenuto, gli si parano contro come se volessero passarlo a fil di spada. «Ehi, sono Astolfo, non mi riconoscete?» «Ma che?» Quelli gridarono «Ecco il gigante, dagli al rapitore, al ladro, al ladro!» Ognuno un'accusa diversa, ma tutti pieni d'accanimento e d'ira. Cos'era successo? Atlante, vedendosi a mal partito, era ricorso a un ultimo incantesimo, far apparire Astolfo, ai vari prigionieri del palazzo, come l'avversario inseguendo il quale ciascuno di loro era entrato là dentro. Ma ad Astolfo basta dar fiato al suo corno per disperdere mago e magia e vittime della magia. Il palazzo, ragnatela di sogni e di desideri e invidie, si disfà. Cessa d'essere uno spazio esterno a noi, con porte e scale e mura. Forse ritorna a celarsi nelle nostre menti, nel labirinto dei nostri pensieri. Per la selva d'Ardenna in Aquisgrana giunse in Barbante e in Fiandra alfin si imbarca. L'aura che soffia verso tramontana, la vela in guisa in su la prora carca, che a mezzogiorno a stolfo non lontana vede Inghilterra, ove nel lito varca. Salta a cavallo e in tal modo lo punge che a Londra quella sera ancora giunge. Quivi, sentendo poi che il vecchio Otone già molti mesi innanzi era in Parigi e che di nuovo quasi ogni barone aveva imitato i suoi degni vestigi, d'andar subito in Francia si dispone e così torna al porto di Tamigi, onde con le vele alte uscendo fuora verso Calessio fe drizzar la prora. Un ventolin che leggermente all'orza ferendo avea adescato il legno all'onda a poco cresce e si rinforza, poi vien sì ch'al nocchier ne soprabonda. Che li volti la poppa al fine è forza, se non gli caccerà sotto la sponda. Per la schiena del mar tien dritto il legno e fa camin diverso al suo disegno. Or corre a destra, ora a sinistra mano, di qua, di là dove fortuna spinge, e piglia terra al fin presso a Roano, e come prima il dolce lito attinge, fa rimetter la sella a Rabicano, e tutto s'arma e la spada si cinge. Prende il camino, e da seco quel corno che gli val più che mille uomini intorno. E giunse, traversando una foresta, a pied un colle ad una chiara fonte, nell'ora che il monton di pasce resta, chiuso in capanna o sotto un cavo monte, e dal gran caldo e dalla sete in festa vinto si trasse l'elmo dalla fronte, legò il destrier tra le più spesse fronde e poi venne per bere alle fresche onde. Non avea messo ancor le labbra in molle qu'un villanel che v'era ascoso appresso sbuca fuor d'una macchia e il destrier tolle, sopra vi sale e se ne va con esso. Astolfo il rumor sente e il capo è stolle, e poi che il danno suo vede si espresso, lascia la fonte e sazio senza bere, gli va dietro correndo a più potere. Quel ladro non si stende a tutto corso, che dileguato si saria di botto, ma or lentando, or raccogliendo il morso, se ne va di galoppo e di buon trotto. Escon del bosco dopo un gran discorso, e l'uno e l'altro al fin si fu ridotto laddove tanti nobili baroni eran senza prigion più che prigioni. Dentro il palagio il villanel si caccia con quel destrier che i venti al corso adegua. Forza è Castolfo, il qual lo scudo impaccia, l'elmo e l'altrarme di lontan lo segua. Pur giunge anch'egli, e tutta quella traccia che fin qui avea seguita si dilegua, che più né Rabican né ladro vede, e gira gli occhi e indarno affretta il piede. Affretta il piede e va cercando invano e le logge e le camere e le sale, ma per trovare il perfido villano di sua fatica nulla si prevale. Non sa dove abbia ascoso Rabicano quel suo veloce sopra ogni animale, e senza frutto alcun tutto quel giorno cercò di su, di giù, dentro ed intorno. Confuso e lasso da girarsi tanto, s'avvide che quel loco era incantato, e del libretto ch'avea sempre accanto che Logistilla in India gli avea dato, a ciò che ricadendo in nuovo incanto potessi aiutarsi, si fu ricordato, all'indice ricorse, e vide tosto a quante carte era il rimedio posto. Del palazzo incantato era diffuso scritto nel libro, e v'eran scritti i modi di fare il mago rimaner confuso, e a tutti quei prigion di sciorre i nodi. Sotto la soglia era uno spirito chiuso che facea questi inganni e queste frodi, e levata la pietra ove è sepolto, per lui sarà il palazzo in fumo sciolto. Desideroso di condurre a fine il paladin si gloriosa impresa, non tarda più che il braccio non inchine a provar quanto il grave marmo pesa. Come Atlante le man vede vicine, per far che l'arte sua sia vilipesa, sospettoso di quel che può avvenire, lo va con nuovi incanti ad assalire. Lo fa con diaboliche sue larve parer da quel diverso che solea, gigante ad altri un villan parve, ad altri un cavalier di faccia rea. Ognuno in quella forma in che gli apparve nel bosco il mago, il paladin vedea. Sì che per riaver quel che gli tolse il mago, ognuno al paladin si volse. Rugger, Gradasso, Iroldo, Bradamante, Brandimarte, Prasildo, altri guerrieri, in questo nuovo error si fero in ante, per distruggere il duca accesi e fieri. Ma ricordossi il corno in quello istante, che fe loro abbassar gli animi altieri. Se non si soccorrea col grave suono, morto era il paladin senza perdono. Ma tosto che si pon quel corno a bocca e fa sentire intorno il suono orrendo, a guisa dei colombi quando scocca lo scoppio, vanno i cavalier fuggendo. Non meno al negromante fuggir tocca, non men fuor della tana esce temendo pallido e sbigottito, e se ne slunga tanto che il suono orribil non lo giunga. Fuggì il guardian coi suoi prigioni, e dopo delle stalle fuggir molti cavalli, ch'altro che fune a ritenerli era uopo, e seguiro i patron per vari i calli. In casa non restò gatta né topo, al suon che par che dica «Dalli, dalli!» Sarebbe ito con gli altri Rabicano, se non ch'all'uscir venne al duca in mano. Astolfo, poiché ebbe cacciato il mago, levò di sulla soglia il grave sasso e vi ritrovò sotto alcune i mago ed altre cose che di scriver lasso. E di distrugger quello incanto vago di ciò che vi trovò fece fracasso, come gli mostra il libro che far debbia. E si sciolse il palazzo in fumo e in nebbia. Gli episodi dell'intrappolamento dei vari paladini e quello dell'arrivo di Astolfo Liberatore non sono posti nel poema uno di seguito all'altro come li avete ora ascoltati. C'è di mezzo un intervallo che dura ben 10 canti. 10 canti in cui la battaglia di Parigi, tra carneficine, incendi e atti di valore, cambia le sorti della guerra tra pagani e cristiani. Già ci eravamo accorti che da quell'epoca erano assenti quasi tutti i campioni più famosi. Solo la robusta presenza di Rodomonte torreggiava nella mischia. Finalmente sappiamo dove s'erano cacciati tutti gli altri. Atlante li aveva sequestrati nel suo labirinto. E ora ridà loro libero corso per le vie del poema. Atlante o Ariosto? La parte dell'incantatore che vuol ritardare il corso del destino e la parte del poeta che ora aggiunge personaggi alla storia, ora li sottrae, ora li aggruppa, ora li disperde, si sovrappongono fino a identificarsi. La giostra delle illusioni è il palazzo, è il poema, è tutto il mondo. Abbiamo trasmesso la 12ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.